Senz'altro avevamo grandissime certezze come squadra, è normale che adesso sia rimasti fermo tanto tempo, le altre per fortuna loro avevano le partite di Coppa Italia per rientrare di più con lo spirito, ma noi ho visto i ragazzi fiduciosi e vogliamo lasciarci questo periodo alle spalle giocando la partita con l'Atalanta. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Trofeo campiona Adriatura Dominic Thiem. It was a very special time for me. Thanks for calling me 4 weeks ago, Nore. You can be really happy to have somebody like Novak here in your country. Let's enjoy it and definitely we'll be back and thanks to everybody. Uživamo i svakako ćemo se ponovo vratiti. Hvala svima. Signore e signori, Anita Panizza, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, Valeria Bernardi e tutti quanti, se si poteva fare una figuraccia, eccola qua, la servita Nole Djokovic. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Radio Tweet per chi è oggi? Radio Tweet è proprio su questa vicenda, al di là degli aspetti che adesso discuteremo con Stefano Veloccaro e ovviamente di eventuali responsabilità, eventuali leggerezze. Però insomma questa vicenda qui ci ricorda, ci fa da watch out, come direbbero gli inglesi, del fatto che il virus non è sparito, è in sordina, i comportamenti virtuosi di tutti li abbiamo sicuramente capitalizzati e oggi la voglia, la tentazione, io stasera vado a fare il terzo suolo, non vedo l'ora che torni Genta allo stadio. Questo è indiscutibile, però è chiaro che questo episodio, assieme a una certa leggerezza che c'è stata, ci fa capire che bisogna conviverci ancora un po', è quello che dicono i virologi, e insomma, sì, per cui spero che non rallenti troppo il ritorno dei tifosi allo stadio, però è anche vero che... Il fatto è che io ho l'impressione, hai già citato Stefano Veloccaro che saluto, buongiorno Stefano. Eccoci ragazzi, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Ma al di là del campanello di allarme, come dice correttamente Pierluigi, se si poteva fare un casino d'inferno nel modo peggiore, lo hanno trovato, mi pare, Stefano. Guarda, io quella roba lì l'ho vista in televisione, inizialmente ero convinto che fosse una replica. Cioè, quando io... Veramente? Sì, giuro, quando io ho visto una roba, ho detto, vedi che bravi, fanno vedere le immagini, chissà dove l'avranno giocata questa esibizione. Poi ho visto che c'era scritto live, e diretta. Live. Cioè, la roba, allora, tribune piene, giocatori che si abbracciavano serenamente alla fine delle partite, ma in abbracci, proprio lanciandosi in abbracci, stringiamoci forte e vogliamoci tanto bene. Raccattapalle, giudici di linea, tutto il contrario di quello che il buon senso e che le regole. Allora, vi faccio un esempio, ragazzi. Carlo, sì. Cioè, io sono a Todi in questo momento. Sì. Pierluigi lo sa perché avevamo un appuntamento, sì, di padel. Pier voleva fare una tappa a Todi per salendo a Milano. Io sono a Todi per i campionati italiani assoluti di tennis. Quindi sì, ci sono delle regole che sono assolutamente ferree. L'altro ieri ero di fronte al campo centrale, una palla è andata in una fioriera. E io, come da gesto istintivo di un fesso, sono andato per raccoglierla e ritirarla in campo ai giocatori. L'arbitro mi ha detto no, fermo, non tocchi la palla. Uh-huh. Cioè c'è un ragazzo che gira con un guanto sterilizzato per raccogliere le palle che poi vengono date ai giocatori in campo. Uh-huh. Non ci sono raccattapalle, non ci sono giudici di linea, capito? Sì, così sì. Si fa. No, ma è curioso comunque che sia stata gestita in questo modo la situazione nel re degli sport di senza contatto, no? Della serie, quando la vai a cercare te la trovi, comprese le feste dopo il torneo, dopo la tappa di Belgrado, compreso tutto questo, compreso Djokovic che in Croazia rifiuta di fare il test in loco e torna da positivo in Serbia, insomma, peggio di così si muore. Tutte le contraddizioni di Nole Djokovic, che a me è molto simpatico personalmente, però davvero tutte le contraddizioni di Djokovic in questa situazione. Ne parlavamo qualche mese fa, no? Comincia ad avere un'immagine non del tutto, sì, non più a tutto tondo, e mi dispiace perché fa simpatica anche a me, insomma, al di là del fatto che poi io sono sempre per sempre dalla parte di Federer, ma questo fa parte ovviamente delle umane simpatie. No, però insomma, mi sembra, e vorrei coinvolgere Stefano, che ne parlavamo già qualche mese fa, no? Sul fatto che non era più un'immagine purtroppo completamente senza macchie, senza paura, e sicuramente questa vicenda non lo aiuterà diciamo nella costruzione di un'immagine positiva. Allora, il ragionamento è questo: Djokovic è un personaggio molto istintivo, in certi casi al limite del naif, cioè è uno, ti ricordi, a inizio carriera le imitazioni in mezzo al campo dei colleghi, poi gli hanno spiegato sì, che non era esattamente, insomma sì, un po' sì, ma poi il limite da valicare è molto sottile. Va detto anche che lui ha fatto delle cospicue donazioni all'ospedale senza essere certo. richiesto. Sì, sì, ma infatti tutte le contraddizioni... No, questo evento, lo ricordiamo, no, però è giusto dirlo, questo è un evento benefico, che sì. nasce come evento certo. benefico con le no. migliori intenzioni, però, ragazzi, però poi... Ma tutte le contraddizioni, questo, ha fatto Ma Djokovic è numero uno del mondo nel tennis ed è capo della delegazione giocatori, la faccio semplice, all'interno del governo del tennis sì. mondiale. Cioè lui è il biglietto da visita certo, numero uno di uno sport che sta cercando faticosamente di ricominciare, che si è riorganizzato per giocare lo US Open senza pubblico, Roma ad oggi 21 settembre senza pubblico, e poi con questa pacchianata che comunque è evidente che è stato un errore madornale. Sì, io posso dirti una cosa, non vedo una bella immagine del tennis in questo momento, cioè da fuori sembra che non abbiano voglia, che i grandi protagonisti non abbiano tutta questa voglia di tuffarsi nei grandi appuntamenti ritardati del tabellone che fanno un sacco di storie, abbiano una gran voglia invece di divertirsi e magari di fare cassa con queste esibizioni un po' qua e un po' là, insomma non proprio tornei ma partite ai tre game, tutte queste cose. Non mi sembra che abbiano tutta questa voglia di rituffarsi nel loro lavoro, Stefano. Allora, diciamo, sì, adesso tu l'hai fatta un po' deteriore, diciamo che non sono tutti d'accordo. Federer si è tirato fuori perché lui si è rioperato al ginocchio e dunque sì. il problema non si pone per lui. Nadal è sempre rimasto un po' nel mezzo, cioè ricominciamo a giocare ma... Djokovic, lo sappiamo ragazzi, Djokovic, ripeto, è un ragazzo meraviglioso, ma è un naturista, è uno che abbraccia gli alberi per curarsi, è uno che crede nelle vibrazioni positive dell'acqua, nel potere pranoterapeutico dell'acqua che vibra positivamente se tu sei felice, e tu qui sai tutto questo suo modo di ragionare, privo tra l'altro dei filtri del suo ufficio stampa, perché in questo momento lui era da una parte e i suoi tutori dall'altra, il risultato è quello che abbiamo visto. Ecco, da questo punto di vista tu pensi che rischierà qualcosa nel, diciamo, nei ruoli istituzionali? Facevi giustamente riferimento al fatto che lui in questo momento è il sindacalista del tennis mondiale, giusto? Sì, cioè, è un ruolo che secondo te dopo questa vicenda rischierà di perdere? Guarda, io questo non lo so, cioè il rischio concreto non so se lo corra davvero. So però che Andrea Gaudenzi, che è diventato presidente dell'ATP da inizio anno, ha rilasciato una dichiarazione in cui, senza mai citarlo, il che è anche peggio che averlo citato, senza mai citarlo ha detto: qui facciamo come i ragazzini quando stanno imparando ad andare in bicicletta, non vogliono mettere il casco, poi a un certo punto cadono, battono la capoccetta e dicono: ai ai ai, mi sa che è meglio che io metta il casco quando vado in bicicletta, e non ha mai fatto il nome di gioco. Tra l'altro leggevo anche che nell'ultima hanno fatto di recente una riunione, ovviamente su Zoom eccetera, con i vertici del tennis, Djokovic non pervenuto in quell'occasione. È così, ma ripeto, questo è un momento transitorio per il tennis, per cui è anche normale che non tutte le sue propaggini e non tutti i suoi rappresentanti concorrano, cioè c'è un po' di disaccordo sulla ripresa, perché il torneo forse si giocherà 2-7-3, non 3-7-5, parlo degli slam, parlo di un'assenza del pubblico, poi il fatto che ai giocatori pesa molto di non poter girare con tutto l'entourage completo che hanno a disposizione e a cui sono abituati, sì, no? Perché sì, è forte, è miliardario ed è anche un po' viziato, parlo del vertice assoluto, per cui tutto questo concorre a dare del tennis in questo momento, come dicevate voi prima, purtroppo un'immagine non perfetta. Però ripeto, io poi sono a Todi, qui ci sono degli ottimi giocatori italiani, c'è Lorenzo Sonego che è a testa di serie numero uno, che sta giocando in questo momento, e qui si gioca, tutto avviene nel rispetto delle norme e sono tutti contenti e sorridenti. Tra l'altro c'è pubblico, no? Tra l'altro c'è pubblico, metà della capienza dell'impianto, che comunque è piccolino, anche se è un gioiellino, perché è un piccolo Wimbledon adagiato sulle colline umbrie, il circolo tennis di Todi, e il pubblico ha, per dirti, ha un percorso obbligato, cioè un senso orario di sola andata per girare per i campi, cioè nessuno passa, nessuno può passare dove è già passato. Sì, e come funzionano le cose? Poi ti saluto. Funzionano bene, cioè sono tutti contenti, i biglietti nominali, per cui se vuoi venire a vedere il tennis devi prima comprare il biglietto e dichiarare come ti chiami, e ti sanificano pure a un certo punto pure sotto i pantaloni quando entri. C'è uno che sai con il distributore dell'acqua ramata, no? Quella per le bici. Sì, sì. Ecco, c'è uno che ti spruzza pure nelle tue parti di zona. No, beh, comunque ciao Stefano, ti lascio a Sky. Grazie. Ciao Stefano Melocchero. No, questa è Pierluigi, comunque è una prova generale, io spero, anzi speriamo tutti insieme in coro, una prova generale di quanto potrebbe accadere negli stadi, tra, anche qui speriamo tutti in coro, non tantissimo. Appunto, cioè quello che è successo in queste ore ci fa capire che una ripresa è possibile, anzi è auspicabile, è positiva da mille punti di vista, non solo quello economico ma anche quello dell'umore delle persone, perché lo sport fa bene all'umore, e che il pubblico deve tornare più presto, ma che è molto importante il modo. Ma chiaro. Guarda, noi abbiamo avuto una riunione l'altro giorno di riallineamento con Marco Foroni, con i colleghi di DAZN, con tutti i commentatori, e uno degli aspetti che ci piace, che già chi è andato in onda in queste ore ha sottolineato, è far vedere nel nostro piccolo che anche il nostro lavoro ha delle differenze. Cioè io ho fatto 2:30 prima, c'è la misurazione della febbre, ci sono le mascherine, ci sono postazioni larghe perché proprio bisogna evitare qualsiasi tipo di contatto. In certi momenti può sembrare anche un eccesso di zelo, soprattutto alla luce dei numeri incoraggianti che ci sono in Italia negli ultimi giorni, ma quello che è successo in Germania in queste ore o che è successo con Djokovic ci fa capire che invece la precauzione non è mai troppa, e finché noi non riusciamo a sconfiggerlo definitivamente, poi appunto rischiamo che per qualche errore, non ti dico che dobbiamo ricominciare da capo. E lì di errori ne hanno fatti finché ne vuoi, ma anche dal punto di vista dell'immagine ha dato una pessima... Perché poi c'è anche un tema fondamentale che è quello dell'esempio. È chiaro. Soprattutto chi è un personaggio pubblico, però ecco, insomma, Stefano ce l'ha spiegato benissimo, Djokovic ha tante virtù, sicuramente è un personaggio un po' probabilmente ha sottovalutato. Ci torniamo sopra eventualmente con ascoltatori 800 24 00 24. Adesso ci fermiamo un secondo, poi andiamo dal professor Auriemma a farci spedire un po' di sole di Napoli, in questo momento splendido il sole su Napoli. Djokovic è sincero, poi Djokovic è così, punto. Lui, come anche sull'alimentazione, lo stile di vita, ha scoperto un mondo parallelo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Insigne che lascia a Politano, tratta di uscire per Milik di testa, si conferma letale per il Verona. Secondo me è riduttivo dire che Napoli oggi è solo stato compatto, e no, il Napoli quando avevamo palla abbiamo giocato, abbiamo fatto correre loro. Io poche squadre quest'anno ho visto giocare bene contro il Verona. Che come tutti i miei giocatori sanno che io non parlo dei soldi, perché i soldi non sono miei, io faccio le valutazioni con il mio direttore sportivo, con il nostro presidente, e so che in questo momento Alec ha un problema contrattuale, ha un anno di scadenza, e lui sa che da parte mia se vuole firmare, io penso che ce ne sono pochi giocatori ad andare a prendere più forti di Milik in questo momento, e per noi è un giocatore importante, però la decisione sta a club, sta a lui, e lui sa il rispetto che ho calcisticamente e umanamente nei suoi confronti. From Napoli. Don Raffaele Arriema, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao. Meraviglioso sole di giugno su Napoli, eh? Al Pacino Gattuso, questo parallelo lo muto da Leo Turrini di ieri, è riuscito a riaccendere tutto come un albero di Natale. Sì, ci ha messo un po', non neanche tantissimo, perché nelle prime sei partite lui ha perso 4 volte, vincendo anche in Coppa Italia col Perugia, dopodiché nelle successive 12 ha vinto 9 volte e ha perso solo una, quindi vuol dire che la squadra è tornata a correre come doveva fare anche con Ancelotti. Poi io voglio tornare sempre sullo stesso argomento, però la testimonianza del Napoli di oggi è la conferma di quello che poteva essere, che De Laurentiis voleva che facesse Ancelotti, cioè lottare per lo scudetto, perché se fosse arrivato Gattuso dal primo giorno quest'anno, io sono convinto che oggi il Napoli si sarebbe trovato a questo punto della stagione a battersi con la Lazio, con la Juventus, con l'Inter, perché ha tutte le carte in regola, è probabilmente l'organico più forte da quando De Laurentiis ha preso il Napoli, perché ci sono 2 calciatori per ruolo, ormai nel Napoli gioca e gioca, non c'è differenza, non ti fai caso se gioca Allan o Fabian Ruiz. E però, vedi uno dei mille meriti di Gattuso, lo chiedo anche a Pardo, è stato quello di aver fatto delle scelte precise e decise, cioè di aver stabilito delle gerarchie che forse con Ancelotti non c'erano. Ora non so se questo Napoli potesse essere competitivo per il titolo, potesse essere lottare con le prime. Sono successe un sacco di cose in questa interminabile stagione, però certamente Gattuso ha dato delle linee più chiare a questa squadra, Pier. Sicuramente sì, io non ho la stessa idea di Raffaele, anche se in questo momento è molto popolare dire che era tutta colpa di Ancelotti. Io credo che Ancelotti sicuramente non abbia brillato a Napoli, questo lo sa anche lui, e credo che in quel periodo lì i problemi dovessero essere risolti. Non ho la certezza, non ho le prove per poter dire che il problema fosse Ancelotti, però sicuramente si è temporeggiato troppo, si è perso del tempo, si è fatto qualche errore, l'ho anche detto, non cambio idea. Alcune dichiarazioni, la questione delle multe che non si sbloccava, ecco, secondo me quella parte lì della stagione il Napoli tutto la poteva gestire meglio, e quando dico tutto parlo a parte i tifosi che poveri non c'entrano niente, parlo della società, parlo dei calciatori e parlo anche di Ancelotti. Gattuso ci ha messo un po', io ho la sensazione nettissima, magari quando lo incontrerò in giro glielo chiederò, ma insomma lui in qualche modo l'ha fatto anche capire, per esempio nelle dichiarazioni post Napoli-Torino, sì, che lui abbia lavorato molto su se stesso in queste settimane, abbia ammorbidito molto alcuni suoi aspetti, anche dal punto di vista strettamente tattico, cioè secondo me sta crescendo molto, sta maturando molto, ed è giusto che in questo momento si goda il momento e si goda anche e si prende anche quello che è suo, no? Sì, ma si prende anche quello che è suo. Ha detto vabbè ragazzi, non è che siamo tutto solo grinta, corsa, battaglia carattere, stiamo anche giocando a pallone, bene, e questo è sacrosanto, questo è sacrosanto. Io ripeto nel mio piccolissimo 1000 volte, cioè che lui deve tirarsela tra virgolette un filo di più, deve sottolineare un pochino di più il fatto che non è soltanto quell'immagine lì, che per carità a noi piace tanto. A me l'immagine di Gattuso, corsa, cuore, anima, anche qualche errore qualche volta della sua carriera dovuto all'impulso, un'immagine che mi piace. Ma è riduttiva. Perché è letteraria, è riduttiva. Però è riduttiva, perché lui secondo me sta lavorando in una direzione che è quella veramente a tutto tondo di un grande allenatore. No, la cosa che non riesco a capire, chiedo aiuto a Raffaele, che dice che questa rosa è il Napoli più forte tra quelli costruiti da De Laurentiis. Però, Raffaele, qualche tempo fa, qualche mese fa, è chiaro che era un'altra era geologica praticamente, però eravamo qui ad avere il dubbio che questa squadra, pure forte, pure di grande qualità, fosse arrivata al capolinea, ma come chimica, come costruzione. Sì, ma è vero. Anche perché qualche calciatore come Caglievon, vedi, gioca poco, idem all'anno. Quindi vuol dire che la trasformazione è in atto, c'è già stata a gennaio, perché mi costa dirlo, ma è tutta colpa di Ancelotti, perché se tu pensi che a gennaio il Napoli ha dovuto comprare 2 calciatori per un solo ruolo, parliamo di Dem e Lopotka, perché Ancelotti sosteneva che non c'era bisogno di quella figura professionale all'interno della rosa del Napoli, dopo aver lasciato andare via Amsic e Diawara, come se due elementi in più nel Napoli. Ora, se Gattuso li ha chiesti e li ha messi lì davanti alla difesa per proteggersi, ma anche per organizzare il gioco, vuol dire che era un pezzo che mancava ad un Napoli per essere altamente competitivo come lo può essere adesso. Anche perché, aggiungo, che nelle ultime 8 partite il Napoli ha subito solo 4 gol. E noi tutti sappiamo che per poter arrivare ai risultati la prima cosa è non prendere i gol. E Gattuso questo lo ha capito, ha un ottimo staff guidato da Ciccio. Lui nelle due partite di Coppa Italia è stato molto strategico, così come lo fu contro il Barcellona. E credo che forse anche nella gara di ritorno in Barcellona adotterà questo sistema 4-1-4-1, però poi vedi che mette dentro Lozano e improvvisamente si accende Lozano. Certo. Milik e improvvisamente si accende Milik, no, ma certo, è così. Vuol dire che lui. Ma Milik, Raffaele, Milik che fine fa? Ma Milik, secondo me, va via, anche se le parole di Gattuso di ieri sera mi lasciano nuovamente aperta una finestra per il rientro di Milik da quest'altra parte. Perché un allenatore che dice noi attaccanti forti come lui probabilmente non ne prenderemo, allora secondo me lui sta lavorando anche su questo fronte, così come ha fatto per il rinnovo di Mertens, così come ha fatto per rimuovere il rischio delle cause per faccio fatica a sentire Raffaele Aurier, ma Raffaele ci sei? Ti sentivo a fatica. No, dicevo, Gattuso sta facendo il capo classe. Lui è ancora calciatore nel senso che sa come dire le cose alla squadra e sa come riportare lo stesso alla società. Sì. Allora in questo è quello che serviva De Laurentiis. Ormai credo che l'abbia capito De Laurentiis. Gli allenatori come Benitez o Ancelotti nel Napoli non vanno bene. A Napoli serve gente da campo che suda, che parla con i calciatori, che litighi pure con i calciatori, ma che poi li difendono nelle serie opportune. Sì. Raffaele, grazie davvero, abbraccio. Ciao. Sai cosa, poi ci finiamo per la borsa, però un'ultima annotazione per Luigi. Sai cosa, un'altra cosa che mi sorprende del Napoli, che in effetti hai fatto bene a citare Milik, sta andando benissimo in una tempesta continua di mercato, perché Kaleon non si sa neanche se finisce sta stagione, in scadenza non verrà rinnovato. Milik, che ne dica Gattuso, ma ci conferma Riamma, sul piede di partenza. Allan è ormai finito in panchina, anche lui sul piede di partenza. Sulla permanenza dei difensori, in particolare di Koulibaly, non ci scommetterei tantissimo, eppure stanno andando come un treno. Quindi sta sfattando il luogo comune secondo cui le voci di mercato disturbano. Sì, poi va detto anche che il calcio è sliding doors, nel senso che così come se togliamo che l'Inter ha fatto una grande partita al San Paolo, e per me l'ha fatta in Coppa Italia, l'ha fatta voglio dire, c'è stato un grande Ospina che ha portato il Napoli alla finale di Coppa Italia, dove poi il Napoli si era giocata benissimo contro la Juve, ha vinto meritatamente. Quindi e adesso c'è questa onda lunga che Gattuso e i suoi sono bravissimi a capitalizzare. Voglio dire che poi alla fine del calcio delle volte ci sono gli episodi che cambiano tutto, e una finale di Coppa Italia vinta ai calci di rigore ovviamente è una di quelle cose che ti cambia completamente il senso, l'umore della stagione. Però non è mai casuale, se un risultato arriva è sempre merito di chi lo ottiene, di tutta la squadra, di tutto l'ambiente. No, sicuramente sì, è un'ulteriore complessità questa del mercato, ma insomma il carisma di Gattuso l'hai visto platealmente, direi quasi cinematograficamente, in quel discorso con lo stadio vuoto, col presidente vicino che ascoltava. È riuscito il miracolo, che è quello di ricompattare un ambiente che sembrava perduto. Io credo, sono sempre convinto che il Napoli l'occasione l'abbia persa, abbia perso dei punti in quel periodo lì incredibile a novembre, ha fatto troppa confusione, però sa, meglio tardi che mai nella vita. La stagione che già è positiva, perché quando vinci la Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia, ha già dato un senso alla stagione. In campionato stanno rincorrendo, è ancora più divertente. Sicuro, ma io non vedo l'ora che sia il giorno di Barcellona-Napoli, ma ne parliamo dopo la borsa, quando convocheremo il signor Ricci. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. vi presenta Tutti convocati. Adesso evitiamo la blasfemia, però il re compie gli anni e sono 33. Ciao Filippo Maria Ricci. Grande, grande scelta, che blasfemia, va benissimo, dai. Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Come siamo partiti in basso comunque. Siamo partiti in basso. Pensano, stai neanche parlando di Ibrahimovic, in quel caso esatto. Poteva avere ecco. Più fondo. Come festeggia Messi? Non lo so, ieri l'ho visto nervoso, sai? Però e non so se si è calmato, però lunga chiacchierata con l'arbitro alla fine del primo tempo, dopo un'entrataccia al povero Yeray, difensore dell'Atletic, che poteva anche costargli un rosso, non l'hanno neanche ammonito appunto perché per la canzone che gli hai messo non può neanche essere ammonito, e in generale ha festeggiato clamorosamente in una maniera sfrenata il gol di Rakitic, che mi fa venire in mente oggi un grande titolo di As. Un Barça rachitico, hanno scritto col K, che effettivamente descrive benissimo le condizioni di questa squadra in assoluto affanno, che però comunque resta oggi a 3 punti di vantaggio sul Madrid, che gioca stasera col Mallorca, teoricamente dovrebbero vincere, insomma, e va avanti questa lotta per la Liga, ma Messi non lo vedo proprio tranquillo e sereno, mettiamola così. Motivo? Sfugge. Insomma, la squadra è involuta, questa coppia di allenatori che c'hanno, questo Quique Setién con Eder Sarabia. Ieri c'è stato ceduto, ormai qui abbiamo i time out praticamente, li mascherano come pausa di idratazione, però in realtà sono dei veri e propri time out, e ieri a un certo punto c'erano questi due che parlavano e nessuno che li ascoltava, una scena veramente dall'altro a Siviglia, Barcellona che domina mezz'ora, la mezz'ora arriva il time out, tornati in campo il Siviglia gli è passato sopra, per cui un effetto completamente negativo, sedativo da parte del Barcellona. No, la squadra non va, mi sembra ci sia grande una scollatura tra società e giocatori, e adesso anche tra giocatori e staff tecnico, e vediamo come va a finire. Lui lo sa, lui l'ha detto a febbraio, dice: se giochiamo così la Champions non la vinciamo. E adesso, e l'altro giorno Piquet l'ha detto, a parte la polemica arbitrale, però quando lui dice non vedo come il Madrid possa perdere la Liga, è vero che dà una botta agli arbitri, ma il messaggio è anche interno, è un Barcellona questo volgare. E speriamo che duri a Pierluigi, che duri fino alla partita con il Napoli. Sicuramente sì. Ma sai, prima della pandemia abbiamo lungamente discusso, prima, durante e dopo quel Napoli-Barcellona, del momento del Barça, che dal punto di vista economico non è florido come qualche tempo fa, perché ha fatto comunque degli errori sul mercato, avendo tanti soldi da spendere, tutti lo sapevano, e li ha spesi male, così per riassumere e semplificare. Dal punto di vista dei rapporti, sappiamo lo Spygate con tutte le implicazioni, una dirigenza non particolarmente amata dai personaggi più di spicco dello spogliatoio del Barcellona, un allenatore relativamente poco carismatico, o comunque con un pedigree che non è quello che arriva e si illumina subito d'immenso, e quindi insomma i problemi non mancano. Ieri ho visto gli highlights, tornando poi ieri sera, insomma, mi sembra veramente che sia stata una faticaccia. Sì, poi Bilbao è una squadra tosta, una squadra, anche il gol, non so chi l'ha visto tra i nostri ascoltatori, è veramente un gol che nasce più dalla voglia, dall'ostinazione che dalla qualità tecnica, perché è veramente un'azione che si interrompe 3 volte con gli errori della Bilbao, dove alla fine Rakitic trova a 20 dalla fine il gol decisivo. Insomma, non è il Barcellona spumeggiante degli anni anche scorsi, qui sai, sembra prima parlavamo di Napoli che sembrava fine ciclo, invece magari anche no, questo Barcellona sembra davvero alla fine della corsa, e non è che ci siano tutti questi denari per ricostruirlo. No, ma che, guarda, allora intanto vediamo, hanno questa assoluta necessità di chiudere lo scambio Pjanic-Arthur entro martedì prossimo. Che palle, speriamo che lo facciano, esatto, che non se ne può più, però fino a martedì, poi dopo che non ne parliamo più, quindi questo siamo alla fine. Adesso meno male. Vediamo se lo fanno. Dovrebbero farlo, se no, vabbè, e questo è così. Dopodiché, appunto, noi l'altro giorno, un po' scavando di qua, di là, perché è una cosa che qua in Spagna fanno finta di non vedere, però il Barcellona per comprare deve prima incassare. Ed è certo, i giocatori per incassare teoricamente ce li ha, ma visto che il mercato è fermo, che nessuno vuole spendere, che nessuno c'ha una lira, voglio vedere come fanno a incassare. E se non incassano, cioè proprio parola di Tebas, questi non possono comprare e non valgono gli scambi, capito? Cioè loro devono vendere dei giocatori che devono essere pagati cash. Sì, per cui sì, vediamo come la ricostruiscono sta squadra. E poi vediamo anche come ci arrivano, perché comunque adesso la Liga, se il Madrid vince le sue 8 partite è campione, quindi il Barça non dipende da se stesso. Beh. E poi quella partita col Napoli la voglio proprio vedere, perché cioè, il Napoli in questo momento è una delle squadre diciamo più in forma, certo, sì, d'Europa. Detto questo, stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica, sembra che siano... No, d'accordo, però guarda che gioca male, cioè vuol dire, giocano male, non c'è niente. Cioè, ieri gli ha dato un po' di energia all'ingresso dei due ragazzini, no? Ricky Puig e Ansu Fati, però cioè, davanti c'hanno Suarez, Griezmann e Messi e nel primo tempo non hanno creato praticamente nulla. Cioè, questi sono tre giocatori di livello, capito, colossale. Allora qual è la polemica? Che Quique Setién arriva, la prima cosa che dice: comunque vada come vada, qui giocheremo bene, no? Dice, non, come dire, no, i risultati però sicuramente giocheremo, no, invece non giocano, e oggi veramente gli hanno detti di tutti i colori, anche i fedelissimi. Oggi c'è la tentazione di dire peccato che si giocherà fra 40 giorni. Sì, assolutamente. Oggi te la giochi, secondo me te la giochi alla pari, sicuramente 50-50. Sì, sì. E giocare 50-50 in casa del Barcellona credo che non capi di stesso. E, tra l'altro, a proposito di quello che diceva giustamente Filippo, la necessità è quella di vendere. E il Barcellona, proprio perché chiaramente è una squadra galattica, prendo in prestito un aggettivo da Madrid, non è neanche semplicissimo, nel senso che non è una squadra che ha, sì, ci sono alcuni giovani, sicuramente Ansu Fati, sicuramente ci sono delle cose, ma Coutinho, per dire, come lo vendi Coutinho? Ecco, questo volevo dire, Coutinho è un grande errore, ha tutta una serie di giocatori, certo, vabbè, Messi al di là del fatto che va in scadenza, voglio dirti, cioè in assoluto ha tutta una serie di giocatori che sono enormi, ma difficilmente collocabili anche dal punto di vista proprio strettamente commerciale. Cioè non è una squadra Griezmann, che ha 4-5 giocatori, che ti posso fare. Ma guadagnano un sacco di soldi, cioè hanno degli ingaggi da 40-50 milioni di euro, che li vendi, ne vendi un paio e sì, esistenti. Esatto. Il problema è che immensi, difficilissimamente collocabili anche per via dell'ingaggio, perché insomma, è quello perché poi qualcuno deve pagare. E quindi è un po' incastrato. Cioè, sì, ti ricordi quando si parlava di magari Lautaro a Barcellona, sì, Griezmann a Milano, e che lo stipendio a Griezmann, che glielo paga, guadagna un pozzo di soldi. Quindi... Certo, no, però lì ha fatto bene, cioè, praticamente, no, cioè, Marotta probabilmente il nome a un certo punto l'ha messo sul tavolo, ha fatto benissimo, però poi è chiaro, quello guadagna 17 milioni, chi glieli dà? L'hanno pagato l'anno scorso 126 milioni, un anno fa. Per cui insomma no, è incartata questa squadra, ma poi è chiaro, c'ha enorme qualità, quindi appunto tu dici no, ma sto scendendo in campo con Messi, Suarez e Griezmann, dice porca miseria, ci sono, sì, problemi maggiori nella vita, però poi dopo se non gli arriva un pallone, se non, insomma è una squadra scollata, e ti dico, questo nervosismo di Messi è palese, insomma è palpabile, sì. Sì, e quindi non lo so, vediamo come il Napoli avrà comunque il problema che, diciamo, del dover fare un gol, perché questo c'è, cioè, questo Barça diciamo non prende gol da 5 partite, quindi almeno quello, però rischia sempre di prenderli, quindi e poi vedremo, chiaro, manca talmente tanto che sì, possono cambiare molte cose, possono cambiare molte cose, e vediamo chi mette le mani sulla Liga. Stai lì Filippo, cioè abbiamo il traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. In questi giorni abbiamo capito che la sicurezza è importante in tutto quello che facciamo. Ed è da questo che possiamo ripartire. Nella Eni Station il rifornimento è più sicuro. Fai carburante e ricevi subito un igienizzante per le mani. Al più servito lasci fare tutto a noi e non scendi dall'auto. E se utilizzi l'app Eni Station Plus, paghi senza alcun contatto. Eni Station, riparti da qui. Iniziativa rivolta ai clienti delle Eni Station aderenti a impianto aperto. Puoi pagare con app, carta o contanti. Visita il sito enistation.com. Tutti convocati. Ma scusate, è proprio Arthur il giocatore di cui la Juventus ha bisogno? Io penso proprio di no. Non so se è il giocatore di cui la Juventus ha bisogno, lo chiedo naturalmente ai miei interlocutori, ma la cosa importante è che si decidano. Poi... sono due mesi, dai. Anche, sì, no, basta. Anche tre, sì. No, va bene. Allora, giocatore che per me è un giocatore molto interessante, giovane, un titolare della nazionale brasiliana, ha vinto la Coppa America. Al Barcellona ha cominciato molto bene, poi si è un po' perso, però io lo trovo indiscutibilmente un giocatore interessante, per cui può essere il giocatore per la Juventus. E poi comunque c'è da dire che questo scambio è importante anche per altre questioni economiche, certo. Per cui se univamo tutto, dai. Esatto, eh sì, esatto. Invece Pier, secondo te è Lautaro il giocatore giusto per cambiare la vita del Barcellona, per riaprire un ciclo del Barcellona? Sarebbe Lautaro? Allora, Lautaro è un giocatore giusto per molte squadre, prima di tutto per l'Inter, nel senso che io fossi l'Inter fare di tutto per tenerlo, poi ovviamente tutto si può cambiare, insomma l'Inter ha vinto il triplete nell'anno in cui ha venduto Ibrahimovic, ha preso Eto'o, Lucio, insomma basta saper fare un buon balance tra acquisti e cessioni. Sicuramente è, con quell'età e quella prospettiva, 97, insomma è uno di quelli su cui si può costruire un ciclo, quindi la risposta è sì. Poi se avrà la classe di chi l'ha preceduto nel Barcellona, io non lo so, insomma non parlo ovviamente di Messi, ma parlo dei vari compagni di viaggio di questi anni, io questo non lo so, sì, Suarez sicuramente, insomma questo francamente non te lo so dire, però non è che ci stanno molti altri da andare a cercare, per cui non mi sorprende il fatto che Barcellona lo cerchi, mi diverte di più capire come lo può pagare, perché veramente questo non è chiarissimo. Esatto. Sì, sì, credo, così, credo che l'Inter lo sappia, ovviamente poi sa pure credo che cominci a capirlo anche Lautaro, perché insomma l'abbiamo criticato dopo che fino alla settimana scorsa, ora con la Sampdoria ha giocato una signora partita. Chissà che questi spifferi che arrivano da Barcellona non abbiano fatto effetto, perché non è più così, non sembra più così matematico che Lautaro vada al Barcellona. Filippo, voglio chiederti un'altra cosa, come capitolo porte aperte e porte chiuse, come evolve la situazione in Spagna? Hanno fatto un protocollo per il ritorno dei tifosi, è abbastanza interessante, e però ancora stiamo aspettando, perché anche qui ci sono dei piccoli ritorni, diciamo, del coronavirus, niente di preoccupante, però per esempio ci sono alcune città che sono tornate indietro, sai che noi andiamo, no, con le varie fasi, e alcune sono state retrocesse, per cui c'è grande attenzione, e adesso è prematuro, la Liga poi non finisce nemmeno tra troppo tempo, no? Abbiamo ancora 8 giornate, ma insomma, finisce il 19 luglio, sì. E vediamo, il protocollo è pronto, però non ci sono scadenze, no, cioè, diciamo non ci che sono negli ultimi giorni non se ne è parlato, si è parlato parecchio del protocollo, però secondo me siamo un po' tutti in attesa, adesso bisogna vedere anche, sai, passa un altro weekend, la gente si muove, perché il vero impatto lo è dato dal movimento, adesso qui cominciano ad arrivare anche i turisti, per dire, cioè, frontiere aperte con l'Inghilterra, sì, che con un paese la Francia che, l'altro giorno, certo, però l'Inghilterra mi sembra il paese più inquietante in questo senso, per cui insomma vediamo cosa, quindi al momento negli ultimi giorni da parte, diciamo, la preparazione del protocollo, il tema non è stato più affrontato come prima. Per cui così ti lascio abbastanza un po' in sospeso, ecco. Sì, intanto ci sono il sogno sarebbe quello, ovviamente, di vedere presto in condizioni di sicurezza, non in stile Djokovic, i tifosi allo stadio. Il sogno sarebbe anche quello di vederli a Lisbona, in Portogallo, anche se pure lì ci sono qualche recente problema, c'è qualche focolaio, però manca ancora molto tempo, quindi non demordiamo a Pierluigi in questa nostra... C'è un legame molto profondo col Brasile, io adesso non voglio fare il ministro della sanità in Portogallo, però credo che il tema vero per i portoghesi sia questo, nel senso che il paese ha avuto pochissimi contagi da quello che abbiamo letto, e infatti forse anche per questo, oltre che per il fatto di avere due stadi molto moderni, uno vicino all'altro, credo che insomma sia stato scelto dall'UEFA anche per questi motivi. C'è anche un peso politico del Portogallo calcistico importante, non dimentichiamoci che lo scorso anno vennero scelti per organizzare la Nations League a Porto e a Guimarães. Sì, anche un regime fiscale appetitoso, non nascondiamolo. Sì, ma questo però serve perché per quelli che vanno in pensione, non so se questo c'entri qualcosa con lui. Tornano indietro i calciatori che vanno in pensione. Esatto, no, veramente qua suona tutto. Oggi è finito il suono. Quindi credo che sia tutto sotto controllo e sia stato scelto in maniera razionale proprio per tutti questi elementi. Però è chiaro che la vicinanza culturale e anche la quantità di collegamenti con il Brasile, che in questo momento è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, sicuramente imporrà una certa attenzione. Sì, intanto abbiamo fatto allora prima il funerale al Barcellona. A parte che c'è chi scrive: Ricci, ho visto la partita, il Barça ha fatto di tutto, ma se l'anticalcio come il Bilbao, ci vedo male, mi metto gli occhiali. No, allora, se l'anticalcio come il Bilbao erige un muro davanti al suo portierone, segnare non è facile. No, allora, il Bilbao già partiamo male. Poi, comunque, questo famoso Athletic aveva vinto il campionato alla prima giornata quando c'era ancora Valverde, e poi li ha pure buttati fuori dalla Coppa. Quindi, io non dico che è una squadretta, però hanno avuto anche le loro occasioni. Nel primo tempo, l'ascoltatore avrà notato che le due occasioni migliori sono capitate all'Atletic, non al Barcellona. Poi dopo si sono difesi, d'accordo, però non ho visto proprio appunto un Barcellona straripante. Ognuno ovviamente è libero di pensare quello che vuole, però Vabbè, facciamo, dopo aver fatto il funerale al Barcellona, passiamo al Real Madrid, Pierluigi, perché non mi sembra che il Real Madrid, cioè sta meglio del Barça, però non mi sembra la sua stagione migliore, e anche lì non mi sembra esattamente una squadra con un grandissimo futuro così com'è, Pier. Sì, infatti diciamo che nel dominio totale assoluto del calcio spagnolo degli ultimi anni, da quando praticamente Ricci si è trasferito e ha portato questo fluido benefico, il corso del calcio europeo. mi pare sicuramente che delle ultime stagioni sia una di quelle nelle quali le squadre spagnole di punta sono meno brillanti, poi magari arriveranno comunque. Sì, c'è solo questa squadra dell'Atletico, ma di quello si è trattato, di una squadra assolutamente inattesa. Sì. E anche perché poi in campionato mi sembra che continui a essere una squadra con alti e bassi, sempre, no? Sì, alti e bassi. Adesso si è ripresa un po' il posto di Champions, va bene. No, guarda, sul Madrid l'unica cosa, la differenza col Barça, è che Madrid ha più giovani. Per me ha più giocatori anche in prospettiva, che possono comunque, adesso è tornato Asensio, Vinicius, Rodrigo, poi soprattutto io ieri leggevo sulla Gazzetta un tuo ritratto in punta di penna a Sergio Ramos. Basta leggere quello per capire perché il Real Madrid ancora sta in piedi e probabilmente vincerà questa Liga. Vabbè ragazzi, è stato bellissimo, vi saluto, ciao a tutti. Ringrazio Anita Panizza oggi in assistenza, Claudio Schiattone in redazione, Valeria Bernardo e Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.